qualcuno in ascolto. Hola. Hola. Hola. Segnale buono 9+20, però la radio è molto compressa. No, allora che ho troppo attaccato alla bocca. Adesso com'è? E adesso andava un pochettino meglio, però faccio fatica a capire anche. E adesso com'è? Sono il microfono. Adesso sei sceso anche un pochettino di segnale, però la radio è sempre non è chiara. Ma perché sono magamobile adesso, in giro a Sassari. Oh cappa, io pensavo fossi a casa, no, allora può essere magari anche la zona bassa. È molto probabile anche. Guarda, io sono latte dolce, guarda. Qua luna e sole alta, Cristian, se ho capito bene, Cristian. Sì, capa, beh, latte dolce dovrei arrivarci bene. Tu magari se sei in mezzo ai malati, eccetera, magari è anche quello, allora la radio un po' così. Però il segnale arriva ottimo, anche sino a 9. Tanto non è passato, avanti. E adesso arrivi forte, però sempre la radio un po' non troppo chiara. Adesso è meglio? Sono un pochino meglio. Sotto il microfono di un bel po', dai. Ho capito. Ma è il microfono che stai provando questo? È un microfono con l'eco che c'è nell'apparato, dai. Ho capito, microfono con l'eco. Adesso con questo l'ultimo passaggio sei arrivato ancora più forte di segnale. Perché se sono Lucio Palazzi a me? Ho capito. Io mi a casa facendo un po' di faccende domestiche, albero di Natale per accontentare i ragazzi, e quindi adesso che ho avuto un attimo di pausa ho sentito che c'era qualcuno a risposto. Come tu, devi anche in giro per regalare dei puntini e niente di che, guarda, no, come sulle tre cose, dai. Tanto questo periodo, forse, anzi in questo periodo è meglio stare a casa e poco in giro, perché in giro c'è un sacco di confusione. È un bel freddo duro. Freddo ce n'è, al diciamo centro Sardegna, zona nuorese, lì ha fatto una forte nevicata, ma stamattina pure qua c'era un po' di freddino e qualche grandinata presto. Adesso si è ripresa un po' la temperatura, stasera era intorno ai 10-11 gradi, adesso non lo so a dire la verità come è sceso il sole, eccetera, magari si è riabbassata. Sì, guarda, saremo, non dico bugia, ma io so quale saremo adesso, dai. Sì, probabile. Adesso do un'occhiata al telefonino che me lo dice subito. 3 gradi qua. Mi sento più caldo. E l'ultimo passaggio non l'ho capito. Non ti sento più, che sono in mezzo a alberi, a palazzi, quando ho sentito il passaggio del telefonino. Ho capito, sì, no, stavo guardando la temperatura al cellulare e avevo ancora gli 11 gradi di prima, adesso mi dice che ci sono 8 gradi. Cristian, se mi senti ancora, io sono sempre in ascolto, se non ci risentiamo e tu mi senti, ti saluto comunque. Sì, non c'è nessuno. Cambio, attenzione, canale 10, cambio, state tutte sganasciate. State tutte sganasciate. Ciao, buonanotte a tutti.